Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaida. E rieccoci, nuova stagione. Sì, l'estate sta finendo, come dice la canzone. Sì, ma famosa. va bene, basta con questi sentimentalismi, l'estate finisce. Guarda, c'è un sacco da fare. Qua siamo a Milano, si sta mai con i mani in man, no? Come si dice? Sì, si sta mai con i mani in man, però io non è che anche quest'estate stavo con i mani in man. Stavo con i man nei capelli, stavo con i man sugli scogli. Veramente no, stavo in montagna, stavamo abbracciati agli alberi. Spero che tutti abbiate passato una buonissima estate, vi siate rilassati per ricominciare con un nuovo slancio l'anno che prosegue. E tra l'altro, a proposito di nuovo slancio, una buona cosa è nata all'ospedale di Treviglio. Ah, sì, è vero. Perché all'ospedale di Treviglio c'è stato questo il direttore generale dell'azienda ospedaliera, che si chiama Cesare Ercole, che ha deciso che i cani possono entrare in ospedale e riposare nelle stanze con i pazienti. Quindi, a parte il mezzo busto che io vorrei per questo direttore, per esempio, quante volte abbiamo detto che accarezzare il cane fa bene, no? Che libera endorfine, sì. Regola la pressione sanguigna, insomma, fa un sacco di cose belle. Ecco, allora, la dimostrazione che effettivamente fa bene ce l'abbiamo proprio da parte di un ospedale. Sì, finalmente anche noi in Italia passiamo dalle parole ai fatti, proprio perché oramai è stato dimostrato. Io poi sono come si dice, facilitata avendo te, Angelo, vicino, che mi aggiorni su tutto. Mi aggiorni. E quindi oggi, appunto, visto che abbiamo letto questa notizia di cui vi accennava Angelo, che abbiamo trovato deliziosa, abbiamo provato a chiamare e abbiamo in linea con noi il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Treviglio, che è il dottor Silva Santino. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dottor Silva. Buongiorno. Come va? Bene, grazie, voi? Noi benissimo. Quanti cani ci sono al momento in ospedale? Sicuramente più cani che pazienti, magari. No, per il momento abbiamo solo pazienti. Adesso non abbiamo ancora avuto richieste per l'accesso dei cani, però speriamo che qualcuno ci venga dietro su questa iniziativa. Infatti noi saremo felicissimi. Intanto ci spieghi come è nata l'idea? C'è stata l'intuizione del nostro direttore generale, che ha avuto appunto questa felice idea di portare l'attenzione sull'accesso dei cani e degli altri animali d'affezione. Io sono stato ben felice di andargli dietro, perché sono anche un ragazzo di campagna come il nostro direttore generale, quindi abbiamo piacere di avere gli animali, sappiamo qual è l'importanza degli animali, perché purtroppo l'utenza media dei nostri ospedali e di persone anziane che magari hanno anche qualche problema con la famiglia e quant'altro, magari se hanno più il cane di compagnia che di far compagnia che altro, per cui sembrava giusto almeno dargli questa possibilità di avere un animale a cui sono affezionati anche in questa situazione di un ricovero. Bravi, bravissimi. Ma intanto, dopo che è stata data questa notizia, avete riavuto un riscontro? È successo qualcosa? Sì, più che altro ci hanno scritto persone che ci hanno dato un po' un riscontro negativo, nel senso che tutti pensano che l'ospedale sia un luogo molto asettico in cui la gente entra solo previa sterilizzazione. E in realtà è il contrario, forse. Sì, purtroppo ci tocca anche lottare tutti i giorni con le infezioni ospedaliere, per cui non è proprio l'ambiente pulitissimo che uno si può immaginare. Chiaramente noi facciamo di tutto per tenerlo il più pulito possibile. Vorrei anche dire una cosa, no, a queste persone, per tranquillizzarle. Allora, sono molte di più le malattie che si possono prendere dalle persone, no? Perché fra persone e persone. Piuttosto che da un cane, perché l'organismo di un essere umano è l'ambiente consono, identico al nostro, dove far proliferare batteri, virus e via dicendo, e quindi è più facile che una persona che entri in ospedale ci trasmetta qualcosa piuttosto che un cane. Che un animale, sì, certo. Questa è una battaglia che, per esempio, combattiamo tutti gli anni quando cerchiamo di far vaccinare le persone contro l'influenza, per esempio, soprattutto diciamo i nostri operatori che si vaccinano contro l'influenza, perché sono loro che magari poi trasmetto l'influenza ai pazienti, non viceversa. E non i cani. Ma che poi mentre i cani fanno bene. Esatto, che poi io ho letto che invece voi giustamente fate una distinzione negli spazi dove possono dove possono cercare. Quindi io ho letto che tranne nei reparti giustamente di rianimazione, anestesia, chirurgia generale, ostetricia, ginecologia, quindi vuol dire ovvio che il cane non entra in sala operatoria. Ovviamente sì. Però suppongo possa stare nelle camere dove invece ogni paziente, una volta fatta un'operazione, un intervento, una cosa, può avere la compagnia del proprio cane? Sì, chiaramente abbiamo messo come criterio prioritario il fatto che ci sia una valutazione da parte del medico che ha in cura il paziente, vedere, valutare se questo è effettivamente in grado di ricevere o meno queste visite. Poi chiaramente se il paziente richiede può accedere col cane. La nostra idea sarebbe anche se poi il paziente ha la possibilità di camminare, può anche recarsi nell'atrio del reparto e ricevere lì la visita del suo animale, insomma. Quindi abbiamo varie possibilità. Vedi, perché infatti vedo che a parte la sala chirurgia, vedo anche il reparto di rianimazione, anestesia generale, ostetrica generale. Sono reparti classicamente chiusi, nel senso dove purtroppo non si aprono neanche le finestre, ma perché i pazienti sono in coma piuttosto che hanno bisogno di essere sedati, eccetera, eccetera. Quindi. Sì, certo. Ma e quindi ovviamente loro c'è qualche parente che viene, può venire col cane nel caso. Sì. Ok. E può stare lì con loro tutto il tempo, che anche i parenti vanno a visitare i loro pazienti. Sì, esatto. L'avete già è già arrivato qualche No, al momento non è ancora arrivato, nessuno. Abbiamo ancora avuto la verifica sperimentale, però prima o poi qualcuno arriverà di sicuro. Abbiamo portato, quando abbiamo fatto la presentazione, avevamo a disposizione un cane, anzi due cani a dire la verità, uno che era stato portato da una persona che fa di mestiere l'addestratore, quindi aveva un cane proprio per la pet therapy, che è andato anche a visitare con il cane il reparto di pediatria, chiaramente suscitando l'interesse di tutti i bambini ricoverati. Certo. Poi avevamo anche un altro cagnolino che invece era di proprietà di una signora che lavora qui, che anche lui ha fatto la star nel momento della presentazione. Ma qui mi viene un dubbio, non è che le persone non sanno che possono? No, lo dovrebbero sapere, perché abbiamo avuto una risonanza mediatica veramente del tutto inattesa. Ecco. Meno male, anche perché noi abbiamo un'amica, Monica, che addirittura con i suoi tre cani va nei reparti invece in un ospedale dove ci sono i malati terminali e fa proprio una terapia con loro e vede veramente delle cose quasi miracolose, cioè proprio di reazioni di queste persone appunto terminali, veramente, come si dice, emozionanti e importanti. Bene, noi vi ringraziamo di questa iniziativa, speriamo che qualcun altro possa prendere spunto dal vostro coraggio. Voi siete stati come degli apripista, credo, in Italia, o comunque siete fra in Italia, no, ci sono alcune regioni che hanno già legiferato proprio a livello regionale per questi accessi. In Lombardia credo siamo i primi, perché non abbiamo avuto nessun altro, che perlomeno a mia conoscenza, non c'è nessun'altra struttura che ha avuto questo tipo di iniziativa. Ecco. Noi vi facciamo i complimenti, infatti dal punto di vista mediatico, dicevamo, per noi è importante sottolineare questa cosa qua. Avete fatto bene. Benissimo. Io e Rosita e vi Radio 24 siamo contenti. Qualunque problema avete, noi siamo dalla vostra parte. Se avete bisogno, insomma, di incoraggiamento, di parlarne di più, di tranquillizzare quelli che si sono spaventati da questa notizia, noi facciamo tutto il possibile. Grazie, dottor Silva. Grazie, dottor Silva. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Che meraviglia. Bellissimo. Pensa tutte le volte che uno va in ospedale, che già andare in ospedale è perché si sta male, si va con l'angoscia, che uno non vede l'ora di uscire. Pensa quanto può fare invece poter avere lì il cagnolino, il gatto che sta lì sul letto. Bellissimo, che coccola, fantastico, commovente. Ragazzi, adesso un attimo un break, ritorniamo subito dopo, ci abbiamo un sacco di cose da dire. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Eccoci, con Rosetta Celentano, Angelo Vaira. E adesso ci abbiamo un personaggio, una personaggia fantastica. Una personaggia. Non mi è venuto. Nina Boccoli, che ci presenta la sua bipede Benedetta Boccoli. Buongiorno ragazzi, come state? Sto scodinzolando. Brava, vedi che hai imparato. Come stai? Bene, tutto bene? Bene, cioè, hai sentito un attimo disquisire a me e la mia dolce metà su come presentarti. Lui non era d'accordo, sei d'accordo, io non so su che cosa, però no. Insomma, no, siete arrivati a una soluzione? Sì, cioè, qua abbiamo un VIP, anzi due, Nina che ci presenta la sua bipede, no? Perché poi abbiamo questa cosa, noi sappiamo che tu da poco hai adottato una cagnolina da un canile che si chiama Nina. Nina Boccoli, che ha adesso Nina Boccoli, esatto. Ma però ce li hai i boccoli, Nina? No, purtroppo no, è a pelo corto. Descrivicela. Allora, quindi pelo corto, una femmina. Pelo corto è un pezzo unico, perché chiaramente è super bastarda, sembra un Jack Russell, un levriero e un po' un asino anche. Assomiglia anche un po' un asino, se cresce. Cosa ti ha colpito quando l'hai vista il canile di Nina? Ho degli occhi tristissimi. Oh, ti colpiscono sempre quelli che stanno giù in fondo, non ti filano, o quelli più deboli, in questa cucciolata di bastardini che erano uno diverso dall'altro. Uh-huh. E lei era quella che arrancava dietro, faceva più fatica ad arrivarmi, e quindi arrivare vicino a me. L'istinto materno, protettivo, venuto fuori. Ma quanto tempo aveva Nina all'epoca? Aveva 3 mesi, è stata abbandonata questa cucciolata non so per strada dove, e credo quindi che non sia neanche stata cresciuta dalla mamma, quindi io proprio sono la sua mamma, e mi rendo conto che vivendo insieme a lei, che lei proprio non è stata svezzata, ecco. Ma tu quando l'hai portata a casa hai avuto la percezione che avesse avuto dei traumi perché aveva magari dei comportamenti strani? No, perché io conosco Benny da tanti anni, lei prima hai sempre preso, da quando ti conosco io, cani o abbandonati o dal canile. Anche Tommaso era un altro meticcio, no? Scelta nobile. Sì, Tommaso era meticcio, però l'avevo preso da una cucciolata di una mia amica. Ok. Quindi la mia amica aveva un bastardino preso, e qui non aveva proprio nessun tipo di problemi. C'è una grande differenza tra prendere un cane dal canile e prendere un cane o di razza o da una cucciolata, che insomma ha ma infatti ci spieghi dalla mamma. Spiegaci questa tua scelta, perché il cane di canile e non quello di razza, no? So. Allora, perché di razza lo prendono tutti, quelli dei canini non ci va nessuno, perché andare a un canile già fa impressione. Avere il cane di razza fa più fico, e sicuramente il mio è stato forse anche un atto egoistico, guarda, ti dirò, perché io ho voglia di essere amata da un cane, quindi se c'è un cane molto sicuro di sé magari ti ama meno. Mamma, stiamo facendo dei luoghi comuni qua, no, però, cioè, che prima la mamma del cane, poi io sono stato zitto, ma insomma vogliamo spiegare. Ma come luoghi comuni? Ma come ti permetti? Ma qui stiamo parlando di Nina Boccoli. Io non voglio il cane sicuro perché altrimenti non mi ama. Ma cosa, se questa è una vicarianza? Ho fatto anche il corso con Angelo, eccetera. Allora, una cosa che ho imparato con Angelo è ascoltare. Allora, innanzitutto l'ascolto vale per tutti, non soltanto ascoltare il proprio cane, guardarlo, capire che tipo di animo ha, perché ogni cane poi ha un modo, ha un carattere, eccetera, ma questo vale anche proprio nella vita di tutti i giorni con gli esseri umani. La gente ha una capacità di ascolto di 6 secondi, poi si gira dall'altra parte e guarda un tramonto, guarda un'altra cosa, eccetera. L'ascolto è una disposizione d'animo, prima di tutto. Appunto, quello che dico sempre io a Vaira a casa: ma tu mi ascolti? Tra gli umani non riusciamo ad ascoltarci, gli animali sono gli unici che riescono ad ascoltarti, perché il mio cane mi ascolta moltissimo, mi ascolta anche fisicamente. Io adesso sto facendo delle prove, magari non ci riesco, ho fatto il corso di Angelo che sono ancora pasticciona, però faccio delle cose e mi rendo conto che lei mi ascolta molto, mi guarda molto, mi sente molto, molto di più di mia sorella, mio fratello, mio padre e mia madre. Esatto, difatti per quello alla fine bisognerebbe imparare dai cani per come ci accolgono a casa, anche se siamo stati via solo pochi minuti, di come ci stanno vicino, indipendentemente che siamo grassi, magri, vecchi, giovani, ci amano incondizionatamente, ci amano sempre, di come ci ascoltano, di come ci osservano. È che la gente, sai, quando ci chiamano, fidanzarsi con un cane, quando noi istruttori cinofili quando ci chiamano in istruttori cinofili dicono: signor Vaira, mi aiuti, il mio cane non mi ascolta. In realtà i cani sono dei grandi ascoltatori. Il punto è che sei tu che devi imparare ad ascoltare il cane. Un cane che non ascolta è un cane che non è ascoltato. Esattamente, questa musica è meravigliosa. Questa musica è sottofondo che mi sta venendo questa rilassatezza. No, più basso il tono della voce. No, ma più che rilassi, esatto. Più che rilassatezza, ti fra un po' piangi, sembra il libro cuore della serie. Tu l'hai salvato un cane. Ma sì, esatto, risveglia le buone emozioni che ci devono accompagnare, mica c'è soltanto il divertimento e l'entusiasmo. Senti, in tutto ciò, però, comunque sono andata anche l'altro giorno a un canile, ho accompagnato una mia amica, un'attrice, si chiama Paola Pavese, l'ho portata a un canile qui vicino a casa mia e ha scelto un cane, ma un cane bruttissimo, ma meraviglioso. Certo, perché sono i più meravigliosi quelli. Esatto, il cane più brutto del canile. femminile. Io ho detto, ma pensavo prendesse un cucciolo, che è la prima cosa, è più semplice, no, no, si è attratta da quello più bellino. Invece un cesso con delle orecchie orizzontali. Fantastico. Ma chissà, ma guarda che dietro ai brutti si nasconde il principe azzurro, vuol dire, c'è sempre. No, ma poi l'abbiamo portata a casa, io sono pazza di quella cana lì. Pazza, cana. Senti, ma perché a Roma non dicono cagnolina, cana, cane e cana. Senti bene, ma a tutte quelle persone che dicono: guarda, mi piacerebbe andare in canile ad adottare un cane, ma non ci vado perché non ce la faccio, perché poi vedo questi cani nelle gabbie. Cazzate. Tu che cosa puoi dire? Ma sono delle cazzate. Vai in un canile, guarda quegli occhi, perché tu passi. Io sono passata proprio 10 giorni fa e avrei voluto prenderne altre 10 di cane, perché proprio ti chiedono, cioè abbaiano, ti prego, prendimi, fai questo passaggio in questo corridoio. Quando torni indietro, già non ti guardano più, dicono: vabbè, ho capito, hai già scelto, va bene, e ti rimettono a cuccia. Quindi il punto è andare in canile vincendo magari la sofferenza che noi possiamo provare per compassione, per empatia, perché comunque così faremo bene a, ma non a una solo vita. Perché noi passiamo per quei pochi minuti di sofferenza e poi dopo quei pochi minuti però abbiamo gioia tutti i giorni, che ci viene ricambiata 10 volte di più. Senti bene, allora intanto tu, ma scusa, posso dire, mi interrompo un attimo, certo. Andate al canile con un bambino, che forse è più semplice, e andate a farvi soltanto una passeggiata. Non dovete prendere per forza il cane, fatevi una passeggiata con vostro figlio e vedete cosa fa vostro figlio. Sì, bello. Secondo me potrebbe essere una soluzione, perché noi siamo troppo schematici, no? Abbiamo troppe regolette in testa. Sì. Solo una passeggiata, e poi non vogliamo a prendere coscienza di come stanno le cose per crogiolarci nel nostro egoismo. Sì. A volte fa finta che non esista. Io intanto ti volevo ricordare che tu sei una grandissima attrice di teatro, che mi stai anche insegnando un sacco di cose. Cosa farai con le prossime tournée? Porterai Nina con te? Beh, guarda, Nina è un cane molto vivace, quindi non so se riuscirò a portarlo con me, perché ha paura della macchina, quindi sto facendo un lavoro pazzesco. Anche la mattina per mettergli il guinzaglio ci metto 1 ora e mezza con i bocconcini, perché è diffidente, non vuole il guinzaglio, voglio stare a casa. Poi una volta uscita è molto contenta. Devi farti un corso, quindi, di Think Dog. E lei, sì, hai fatto la giornata di ascolto al tuo cane, però ci sono delle cose che bisogna mettere a posto qua. Cioè tutti questi bocconcini per mettere. Ma io il bocconcino gli faccio tutta una stradina di bocconcini, metto il guinzaglio per terra e faccio tutta una stradina di, sì, bocconcini. Come pollicino. Cosa sentono le mie orecchie? C'è il cinofilo qui, dei cinofili che si sta Benny, oggi pomeriggio ci sentiamo al telefono, vediamo un po' dove privatamente ti do 2 dritte. Tesoro, grazie mille della tua chiacchierata con Nina Boccoli attraverso la voce della sua bipede Benedicta. Nina, saluta. Ciao Nina, ciao Benny. Ciao Nina, ciao Benny, grazie. Ciao. Insomma, che dire, bellissimo, meraviglioso. Grazie Benny, è stata veramente, ha detto delle cose veramente interessanti. Molto interessanti. Scelta coraggiosa quella di prendere un cane in canile. Vorrei però sottolineare questa cosa, che quando noi diciamo sono un po' la mamma del cane, va bene, perché sappiamo che noi abbiamo un legame genitoriale con i cani, ma dobbiamo anche ricordarci che i cani non sono bambini, hanno diritti e bisogni che sono diversi dai bambini, perché un cane ha bisogno di uscire e non di stare in braccio, di socializzare con gli altri cani e non di essere iperprotetto, perché l'iperprotezione è una forma di maltrattamento. E qui ci devono aiutare dei bravi educatori, di cui parleremo anche fra un giorno. Poco. Come facciamo? Adesso facciamo una pausa e poi parliamo di bravi educatori. A dopo! Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E rieccoci, cosa c'è da mangiare oggi, amore? Oh, Madonna, io già c'ho fame, lascia perdere. Stiamo praticamente, ieri si è concluso il festival, la 72esima mostra del cinema di Venezia, che è stata dal 2 al 12 settembre. La cosa che ha colpito me, Angelo, in questi giorni era che abbiamo letto che c'era questo chef, famosissimo chef Tino Vettorello, che al Lido di Venezia ha portato dei sapori inediti, soprattutto a base di verdura, quindi si è cimentato nella cucina vegetariana. L'abbiamo voluto chiamare per capire come mai, no? Come è andata questa scelta. Dovrebbe essere in linea con noi chef Tino Vettorello? Sì, buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Ma insomma, chef, Laguna, il pesce, Venezia, eccetera, e lei ci sorprende con questa cosa, favorevolmente tra l'altro a me e Rosita. Meno male, mi fa piacere. Come mai, questa scelta? Questa scelta, io sono sempre stato molto vicino a tutto quanto è il mondo vegetariano, alle verdure, alla frutta, e questo mi dà molto, abbinando al pesce della Laguna Veneta, del Mediterraneo, mi dà molto anche fantasia di poter lavorare nei piatti e molto di sapori completamente diversi. Quindi, quindi scusi, smentire il luogo comune che la cucina vegetariana non ha fantasia, è priva di sapori, no? No, assolutamente, basta solo prendere degli ingredienti. Io dico sempre sul mondo vegetariano della frutta e della verdura, bisogna fare molta attenzione alla materia prima, perché certo, è la scelta della materia prima che è determinante per la creazione dei piatti, perché si scoprono e abbiano dei valori e dei sapori completamente importanti. Noi dobbiamo dare a questi prodotti la maturazione da dove nascono, non raccoglierli quando ancora sono immaturi. E dopo la maturazione vengono fatte all'interno dei frigo, all'interno dei magazzini, no, assolutamente quello. Il prodotto più maturo, giusto, diciamo, ha dei sapori che vanno a esaltare qualsiasi altra cosa che si mette assieme. Ma qui io voglio aprire una piccolissima parentesi e rubarle un segreto. Ma io, cittadino, come faccio a capire laddove la frutta è stata maturata correttamente invece che nei frigoriferi? C'è un modo? Beh, qui c'è un po', ci vuole un po' di occhio, un po' di conoscenza del prodotto, logicamente cercarlo e verificarlo. E poi avere anche dei distributori di fiducia. Il fornitore di fiducia. Assolutamente, il fornitore di fiducia, dove si può anche confrontare, capire da dove viene quel prodotto è importantissimo. Se no, l'unica cosa sarebbe prendere un ciuffo di lattuga, dargli un morso, prendere una mele e dargli un morso. Così. No, e chef, quindi reazione delle persone, degli invitati. A Venezia, al festival, chi è che c'è stato di VIP famoso che ha avuto il piacere di assaggiare la sua cucina vegetariana di quest'anno? Beh, di quest'anno, diciamo, sono passati un po' tutti, sono passati dalla Nannini, adesso da Vasco Rossi, al nostro presidente emerito Napolitano, due volte a cena nel suo ristorante. Diciamo, nel mio ristorante stanno passando veramente tutti. Lei è vegetariano? Molto piacere. No, io non sono vegetariano, però mangio molta verdura. No, perché io e Angelo siamo vegetariani tendenti al veganesimo, quindi siamo stati particolarmente colpiti. Fermiamoci, allora, senza portare a dire nulla, fermiamoci al vegetariano, cioè più che prima che mi fai io sono vegetariano. No, allora ci fa venire un pochino abbiamo molti cereali da poter mettere assieme, abbiamo antiche, ci racconta qualche piatto, visto che siamo sotto orario proprio di pranzo, noi abbiamo anche un certo languorino, ci aumenti ancora questo appetito raccontandoci magari uno o due piatti, quelli che hanno avuto più successo. Vi dico un paio di piatti che hanno avuto successo. Beh, quello che va per la maggiore è sempre il nostro rombo al Cluny, che è fatto a base, è un rombo che viene cucinato a base di prosecco con tutti asparagi di mare. Ma non intendevamo... è vegetariano però questo. Ah, ma lei lo vuole puro vegetariano? Sì. Ah, se voi lo volete puro vegetariano, va bene. Allora, un piatto vegetariano che è andato, del riso venere, abbinato a una spaghetti di verdure spadellati all'olio extravergine di oliva. che proprio appena che rimangono molto croccanti, con dei pomodori confit per dare colore e sapore. Anche questo qui è un pomodoro che bisogna andare a salire quello giusto per farlo confit, altrimenti rimane molto aspro, molto acido. Cielo. Senta, chef, quindi lei ha mischiato riso e spaghetti? Sì, uno spaghetti di verdure, però fatto. Ah, spaghetti di verdure. Non è uno spaghetti di pasta. Sono simili agli spaghetti di riso, quelli giapponesi, simili agli spaghetti di soia? No, è uno spaghetti, io lo chiamo spaghetti perché proprio diventano come gli spaghetti, taglio le verdure in modo dalle zucchine, qualsiasi tipo di verdure, a fettuccine che diventano una spaghetti messa assieme al centro del riso. Quindi alta cucina. Senta, cucina vegetariana diventa cucina gourmet con il nostro chef. Adesso prenderemo una gondola dal naviglio e cerchiamo di remare in fretta. Io mangio per venire remare in fretta, che qui al Lido si sta benissimo, stupende, e vegetariano va ancora di più. Grazie chef, è stato gentilissimo, grazie infinite, all'anno prossimo magari, senz'altro, buona giornata. Grazie. Beh, fantastico, no, considerato che era lì che stava, oramai si era chiuso il festival di Venezia perché è finito ieri e quindi era lì che secondo me stava, si stavano smangiucchiando le ultime cose, è il momento beati loro. Vasco Rossi, che piatto vegetariano sarebbe, Rosita? La scorsa la vedo dura se è un piatto vegetariano, però diciamo una bella pummarola. Ah no, le fettuccine, perché lui è romagnolo. Fettuccine spericolate, facciamo. Bello, fettuccine spericolate vi piace, Vaira. Senti, come facciamo ad individuare il giusto educatore? Ah beh, si apre una bella parentesi qua. Si apre una parentesi. Cioè, ci sono diverse cose di cui parlare. Allora ragazzi, io voglio eccolo. Fantastico, missione impossibile. Il nostro istruttore cinofilo, però, quello bravo. Però io adesso posso sembrarvi di parte, cari miei ascoltatori di Radio 24. Anzi, voglio ricordare, scrivete a chiedimi se sono felice @radio24.it, perché noi vi risponderemo una settimana con l'altra. A volte vi potremo anche chiamare se ci date il vostro numero di telefono e rispondere a tutte le vostre domande. Detto ciò, come individuare l'educatore cinofilo, anche quello da Mission Impossible. Io lo so, posso risultare di parte, ma vi giuro che io non è che ho l'educatore cinofilo qui per eccellenza, così perché gli voglio bene. In realtà è il contrario, gli voglio bene proprio perché lo stimo per il mestiere che fa. Oh, grazie tesoro. Però il punto è: chi abita lontano, chi abita anche in Sicilia, chi abita anche all'estero, come fa a riconoscere un educatore competente? Un bravo educatore cinofilo? Beh, la prima cosa è che abbia una gentilezza di base, perché anche le missioni impossibili, cioè il cane aggressivo, il cane pauroso, il cane che ti distrugge casa, eccetera, hanno necessità di gentilezza da parte dell'educatore cinofilo. Zero aggressione, zero coercizione, zero violenza, perché io ho visto di tutti i colori nella mia carriera, ho cominciato 20 anni fa, da quelli che prendono a calci il cane, le strattonate. Zero sottomissione. Sì, zero sottomissione, il fatto che il cane debba avere il collare con le punte rivolte verso l'interno perché altrimenti non riesce a controllarlo, sono balle. Neanche il collare normale andrebbe, non si dovrebbe più usare. Io personalmente preferisco addirittura soltanto la pettorina, e questa è la nuova tendenza. Generalmente, se una persona incontra un istruttore cinofilo che usa pettorina e guinzaglio lungo, ha già abbastanza probabilità di trovarsi di fronte ad una persona competente. Perché? Perché se tu vuoi ottenere dei risultati da un cane e lo fai in modo gentile, evidentemente quel cane devi conoscere bene, di quel cane devi conoscere bene la psicologia. Non basta che tu prendi lo strattoni e lo obblighi a stare a fianco, che poi tra l'altro è una controindicazione. Questa, quando il cane non avrà più il guinzaglio addosso, ti obbedirà oppure no? Per esempio, poi in America è stato provato che gli educatori che hanno usato coercizione e aggressività sui cani, ci sono aumentate le aggressioni da parte del cane, dal cane da parte del padrone. Quindi, voglio dire, senza far nomi, ma voglio dire, diffidate di tutti quelli che in televisione sono bravi e gentili, poi nella vita di tutti i giorni prendono a calci, usano scosse elettriche, roba del genere. Ma poi ci sono anche un altro paio di cose che vorrei dire. Per esempio, c'è qualcuno che dice: io sono costretto ad usare il collare a strangolo con un cane aggressivo, a parte che non è una necessità, però mettiamo che questo istruttore cinofilo sia l'unico nella zona, non ha altri modi ed è l'unico modo di aiutare questo cane, potrebbe anche starci bene. Il punto è che se quel collare a strangolo, con questa scusa, tu lo metti su tutti i cani, quindi il cucciolo per esempio, no? Io ho visto un signore con il Doberman di 3 mesi col collare a strangolo, dice: ma poi come fai a gestire i cani grossi senza collare a strangolo? Vabbè, ma con questa scusa me lo metti su un cucciolo, non ne ha necessità. E poi, come mostro tante volte, come fanno molti miei colleghi, un cane grosso e aggressivo si gestisce anche con la pettorina. Esatto. Quindi. Senti, ma esiste una certificazione riconosciuta dallo Stato, per esempio in Italia? Allora, questa è una domanda molto importante. Per fare questo lavoro, ecco perché una persona deve essere molto brava a capire chi è bravo, non esiste una abilitazione ufficiale, cioè chiunque può svegliarsi domani mattina e cominciare a fare l'addestratore. Quindi esistono delle certificazioni, non ce n'è una però che dice questo può lavorare e questo no, non c'è un albo, no, come potrebbe esserci l'albo degli avvocati o quello dei veterinari. Poi un'altra volta dedicheremo una puntata invece in quello che la Svizzera fa proprio per questo, cioè che è obbligatorio avere un patentino per chiunque adotti un cane, ma questo ne parleremo in un'altra puntata perché vogliamo parlarne in un modo molto approfondito. Senti, ma che differenza c'è fra l'educatore che ti dice: va bene, se vuole io l'educo il mio cane e il suo cane, però me lo porti qui. E quelli che invece nel sono centro, loro che vengono a casa, cioè portare cenofilo. Il cane nel centro e magari lasciarlo a loro e poi riportarlo già educato. Non è come portare un bambino a scuola con allora, il maestro facciamo, per tornare a casa. Facciamo no? già una distinzione tra chi ha il centro cinofilo e vuole che il cane venga lasciato lì e il proprietario se ne vada, lo vada a riprendere dopo due mesi. Questa era la prassi una volta, 20 anni fa era la prassi. E quello che succedeva, adesso svegliamo questa roba qua, è che il cane rimaneva lì un mese e mezzo a non far nulla. Allora aspetta, scusa un attimo, siccome ci abbiamo le regie ci stanno dicendo che ci abbiamo una pausa, facciamo un attimo un break e riprendiamo subito. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ecco, stavamo parlando appunto di come si può individuare un bravo educatore cinofilo. Stavamo parlando, Angelo, tu ci stavi dicendo proprio la differenza di quello che succedeva una volta. Sì. Stava il cane in un addestramento. Ma se te mi chiedevi, lì. Ma cosa deve fare? Uno deve portare il cane e lasciarlo in un centro cinofilo. Sì, no, si fa, sì. È una prassi che non viene quasi più usata, meno succedeva male. Molti anni fa. Però dicevo che quando succedeva il cane stava lì circa due mesi e normalmente stava un mese e mezzo in box a non far nulla. Ah, fantastico. E le ultime due settimane lo addestravano. Però tu pagavi per due mesi e mezzo, per esempio. Sì. E lo addestravano come? E di solito erano metodi coercitivi, quindi collari con le punte, collare a strangolo, strattonate. E poi io ricordo alcuni zii che avevano fatto questo con il loro cane, che era una sorta di pastore tedesco, un incrocio tipo, che poi quando tornava a casa l'educatore ti diceva le famose parole tedesche corte, sitz, fritz, kritz, tratz, e il cane però a casa non ascoltava come là. Quando poi c'era lui ascoltava, allora, ma in realtà aveva paura. Perché non, il cane non ascolta? Perché è un po' come, cioè quando tu addestri un cane è un po' come andare a cavallo. Cioè, il cavallo può essere bravissimo, ma se io a cavallo non ci so andare, certo. È inutile che mi metto lì sopra e cerco di fare delle cose, ok? Ecco perché nel tempo si è sviluppata un'altra prassi, che è quella di lavorare con il cane e il suo proprietario assieme. Okay. E qui può essere che l'istruttore cinofilo venga a casa, e qui c'è una maggiore cura nel capire quell'ambiente del cane, nel rendere il cane più bravo proprio nel suo ambiente, anche fuori in passeggiata al parco, no? Oppure nel centro cinofilo, dove normalmente si paga un filo meno, perché tu non fai spostare l'istruttore cinofilo, però ugualmente ci sono campi molto validi. Quello a cui bisogna stare attenti è che il cane, se frequenta un centro cinofilo, potrebbe capire che solo lì dentro valgono quelle regole. Ecco perché molti istruttori cinofili preferiscono andare poi loro... lavorare anche fuori, perché sennò il cane dice arrivo nel centro, mi comporto bene lì, immagino che da casa tanti si stanno facendo risate perché si saranno riconosciuti in questa cosa, e qua, appena esco dal campo il cane ricomincia a tirare, a abbaiare sotto le ossa. Sì, un po' il cavallo quando eccetera, è abituato eccetera. A allenarsi dentro il tondino, che appena vede che arriva al tondino fa quello che deve fare fuori. Sì. E lei si riconosce, poi anche lì è bravo istruttore cinofilo perché sa dare delle direttive al proprietario del cane, ma si riconosce anche il bravo proprietario del cane che deve metterle in atto queste cose. Anche perché giustamente ogni proprietario di cane, io compresa, ci si deve mettere in testa, se vogliamo un cane dobbiamo noi per primi andare a stare con gli educatori cinofili per capire come noi noi dobbiamo imparare a riconoscere i segnali che il cane ci dà. Dobbiamo sviluppare delle capacità di comunicazione, di linguaggio. Poche parole, educatore cinofilo è più educatore cinofilo per il padrone dei cani. Sì, tante volte sì. Infatti l'altra cosa battuta, che infatti. Contraddistingue un bravo istruttore cinofilo è che lui lavora insieme con... fra padrone e cane. Esatto. Vogliamo, grazie Angelo, quindi voglio dire in poche parole, in poche cose, poi approfondiremo l'argomento, appunto dicevo, con quello che succede in Svizzera per chi vuole acquistare, prendere un cane al canile, tipi di razze, perché sono tutte cose molto interessanti. Ma adesso voltiamo pagina perché volevo ricordare la vittoria di Green Hill, di tutti i beagle che sono stati salvati, però più di 6.000 beagle sono morti in 4 anni, 6.023 decessi. Sembra dal 2008 al 2012. Dal 2008 al 2012, esattamente. 98 decessi registrati nel periodo successivo al sequestro. Ecco, questo è il dato importante, cioè il fatto che ci sia questo contrasto tra i 6.000 precedenti e soltanto 98 successivamente. Un veterinario lì si doveva occupare di 3.000 cani. Doveva occuparsi di 3.000 cani, dalle 18 alle 7 del mattino seguente tutti, sani e malati, erano abbandonati a loro stessi. Ecco, questa quindi... è la condizione di Green Hill. Ma noi partiamo da questo per arrivare a parlare di che? Sì, questa è stata una grande vittoria e noi al telefono abbiamo il dottor Gianluca Felicetti, che è presidente della LAV, della Lega Antivivisezione, che è stata proprio una delle istituzioni che ha contribuito fortemente alla chiusura di Green Hill. Buongiorno e grazie. Grazie, buongiorno a tutti. E grazie dell'impegno per il lavoro che fate. Esatto, che ci mettete sempre da tanto. Cioè, che io e Rosita ci chiedevamo, no? Allora, tante persone sono contente ovviamente, no, per questa chiusura, questa vittoria sul Green Hill e queste cose qui. Però allo stesso tempo ci siamo detti, ma se uno se la prende soltanto con Green Hill, ma poi quando va a fare la spesa compra di tutto senza farsi domande su se questi prodotti sono testati piuttosto che no e via dicendo, a cosa alla è servita fine questa non vittoria? È servito a nulla. Cioè la causa, quello è un effetto, quello di Green Hill, la causa è il modo in cui noi compriamo, no? Ma certo, il piccolo grande potere del nostro piccolo grande portafoglio è enorme. Consumatore consapevole deve diventare. Le nostre scelte quotidiane fanno, la nostra microeconomia quotidiana e di casa fa la grande economia. Quindi abbiamo l'opportunità, la possibilità, a differenza anche di tanti anni passati nelle quali anche le persone volenterose e sensibili ai temi della difesa degli animali non avevano libertà di scelta, ma oggi in tema di cosmetici, in tema di alimentazione, abbigliamento, spettacolo, possibilità di scelta enorme, esatto. E quindi come possiamo, quando uno entra in un supermercato, deve comprare un alimento, un indumento, un cosmetico? C'è un'etichetta, un marchio che riconosce appunto che non si fa la sperimentazione sugli animali? Cioè cosa ci conviene fare? Per quanto riguarda la sperimentazione, per quanto riguarda i cosmetici, che è stata una battaglia di oltre ventennale a livello europeo, come sapete abbiamo ottenuto da qualche anno il divieto totale di sperimentare sugli animali, non solo il prodotto finito, cioè dopo barba, la crema di bellezza, il rossetto, cioè ciò che arriva nel punto vendita, ma anche il singolo ingrediente, però è possibile ancora sperimentare su animali per altri fini, quelli farmaceutici, quelli dell'industria alimentare, quelli dell'industria chimica in generale. Sì. E qualcosa può anche entrare ancora nei cosmetici. È per questo che associazioni come la LAB promuovono degli standard volontari di adesione da parte delle aziende, in questo caso le aziende cosmetiche, che con un controllo e certificazione fatta da un ente terzo che controlla appunto il rispetto di questo importante impegno, queste aziende non utilizzano nessun ingrediente che è stato sperimentato sugli animali anche per altri fini che non siano quelli cosmetici. Come riconosciamo queste aziende se vogliamo promuoverle, quindi comprare da esse? Allora, la LAV da anni promuove in Italia uno standard internazionale, questa è una forza perché ormai il mercato è ovviamente globale, che è rappresentato dalla dicitura standard internazionale non testato sugli animali, che ha anche un suo logo, che è un coniglietto con le stelline, quindi il logo del coniglietto con le stelline assicura questa adesione. E quindi per chi vuole sapere di più, anche il nostro sito lab.it, benissimo, trovate una specifica sezione per chi vuole saperne di più, ma la dicitura sui prodotti è questa, con il coniglietto, non testato sugli animali, con il coniglietto. Compriamo e promuoviamo quelle aziende. Grazie dottor Felicetti. Grazie dottor Felicetti. Gentilissimo. Grazie a voi. È stato un piacere. Arrivederci. Arrivederci. Passiamo alla nuova rubrica Me l'ha detto mio cugino. Tuo cugino mi ha detto che il cane non va addestrato prima dell'anno d'età. E certamente, perché l'addestramento nasce, signori, dall'addestramento militare, anche per il cane. E quindi, dovendo avere cani militari super addestrati, noi dobbiamo... fammi parlare, però fai tutte queste robe qua. Allora, non è vero. Il cane non possa essere addestrato dopo l'anno di età, non è vero. Si dice perché è legato all'addestramento tradizionale, quindi coercitivo, che se lo fai per un cane che è un cucciolone, ovviamente lo rovini. Ma il cane comincia a prendere già quando è nella pancia della mamma. Appena adottato, arriva a casa, impara che noi lo vogliamo o no, che abbiamo fatto un corso o no. Quindi conviene fare le puppy class, corsi per cuccioli. Bene, quindi il cane apprende dal primo giorno di vita all'ultimo giorno di vita. E con questo vi ricordo, se volete scriverci mail, chiedimi se sono felice, @radio24.it, se volete controbattere quello che abbiamo detto, se volete fare domande, io e Angelo siamo qui ad aspettarvi. Ciao a tutti! Ciao!